felicità è un'idea semplice davanti ai tuoi occhi, tra l'aria che respiri e quella che difficilmente trattieni. Abbiamo già un vissuto che, a dire il vero, somiglia più ad un conflitto. Il cuore spesso offeso da un dito che tu mi hai puntato al petto. Se gli occhi non riescono a raccontarti ciò che vedi, proverò io a dirtelo, perché all'evidenza non ci credi. È troppo tempo che mi parli piano, sono troppi anni che ci conosciamo. Avremmo messo su un palazzo intero, invece ci divide un muro. È troppo tempo che mi parli piano. Gioco a far la guerra perché l'amore non mi ha mai dato tregua. Ma se ti avrò di fronte ancora un'altra volta, nel dubbio farò la cosa più giusta. Se gli occhi non riescono a raccontarti i miei pensieri, proverò a descriverli un po' tutti, anche quelli più neri. È troppo tempo che mi parli piano, che ci conosciamo. Avremmo messo su un palazzo intero, invece ci dividiamo un muro. È troppo tempo che mi parli piano, o se un ricordo lontano. E amore è solo un'ossessione, è un vento caldo, troppo caldo che si muore. Siamo qui tra un passo incerto e l'utopia di un equilibrio ritrovato. Noi siamo qui in un percorso parallelo, ci tocchiamo senza mai incontrarci. Se gli occhi non riescono a raccontarti ciò che vedi, proverò io a dirtelo, perché l'evidenza tu non credi. È troppo tempo che mi parli piano, sono troppi anni che ci confondiamo. Avremmo messo su un palazzo, ci dividiamo un muro. È troppo tempo che mi parli piano, o se un ricordo lontano. E amore è solo un'ossessione, è un vento caldo, troppo caldo che si muore. È caldo che si muore, attento che si muore.